Che occasione persa, come se al posto dei tortellini col Sangiovese, visto che siamo a Bologna, ci servisse un panino con la Coca-Cola. Sarà buono, ma che delusione. La tappa di San Luca, vinta dall'australiano Gerrans, è come un tramezzino freddo che resta sullo stomaco. In uno scenario così particolare ci volevano i fuochi d'artificio degli uomini di classifica, con Di Luca che mette la frusta Menchov e gli altri big. Invece niente, tutto rimandato, ma non per colpa dell'Abruzzese, che anzi si è esposto fin troppo, facendo lavorare sodo la sua squadra per riprendere un gruppo di fuggitivi senza ambizioni di classifica. I rivali veri, che temevano un nuovo exploit di Di Luca in un traguardo a lui congeniale, hanno fatto orecchie da mercante. Vuoi vincere la tappa? Si sono detti. Cavoli tuoi, fai lavorare la squadra. Cosa puntualmente accaduta, ma senza risultato, visto che Di Luca nulla ha ottenuto se non di stancare i suoi uomini generosi come il generoso Graziani, che a furia di spolmonarsi quando doveva far gol, tirava in tribuna al posto che importa. A noi sempliciotti sarebbe piaciuto un bel arrivo esplosivo, con la salita di San Luca da ripetersi 3 volte. Allora sì che San Luca sarebbe diventato Di Luca, ma in questo giro le salite sono proprio indigeste, si preferisce andare in discesa, sempre più giù. La prossima volta faremo un bel giro in metropolitana.